La cicogna nera. Eccoci qua, finalmente alle 9.25 ce l'abbiamo fatta. È sempre un po' un terno all'otto iniziare le trasmissioni qui su Radio Onda Rossa, ma è bello anche per questo, perché le cose non sono mai uguali a se stesse. Dunque, girare un po' le cavetterie, ritrovare un po' gli ingressi dei PC per andare in onda è sempre un piacevole incontro ed inizio per le sonorità popolari. Dunque, ripartiamo da CPT Balkan Music e dunque continuiamo nell'ascolto della fascia serale con le musiche del mondo qui dagli studi di San Lorenzo. Oggi vogliamo un po' andare a sentire, almeno in apertura della cicogna, un po' di musica, un po' di suono che abbiamo tralasciato in realtà negli ultimi tempi. Uno di quei grandi contenitori che non mi ricordo chi l'aveva detto, eccolo, forse l'ho trovato, lui, Enric Santos Discepolo, probabilmente lui diceva che è un pensiero triste che si balla il tango, che questo grande sentimento, contenitore, che è soprattutto figlio delle rive del Rio della Plata, dei barri di periferia, dei quartieri più poveri di Buenos Aires, di Montevideo, ed è soprattutto figlio sia dell'immigrazione europea, vedi italiani, spagnoli, tedeschi, ebrei, polacchi, quanto prima, ma anche, e perché no, un po' anche di quella radice africana, di quegli schiavi presenti soprattutto in Uruguay e che così con il passare del tempo si è un po' perso. Allora, uno dei più grandi artisti, o almeno che recentemente sta ritornando verso le radici africane del tango, Juan Carlos Casares con Toca Tango. Toca Tango, toca Tango, dice lo negro con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaban pa'l servicio o a pedir, buen oficio de migrantes iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron, muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. El cuero pa' olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, boroto, boroto, boroto, cha, cha. Toca tango, toca tango, boroto, boroto, boroto, cha, cha. Toca tango, toca tango, boroto, boroto, boroto, cha, cha. Toca tango, toca tango, boroto, boroto, boroto, cha, cha. Zero 649 1750 è il numero della diretta, oppure potete scriverci a lacicogna@ondarossa.info. Toca tango, toca tango, dice il negro con el tambor, dice Juan Carlos Casares. E questo è molto importante perché, come vi ho anticipato prima, lui proprio quello che sta riportando, o che per primo agli inizi degli anni 2000 ha un po' svoltato l'indice delle direzioni del tango, molto molto bianco nel secolo scorso, verso le sue radici africane. Il suono del tamburo, ce lo dice la parola stessa, il tango è il suono del tamburo nel candombé, ma è un suono che arriva fino a significare il dio Xangô, che è il dio guerriero secondo il culto afroamericano degli Orisha. e Caceres appunto parla della parte nera, della parte negra del tango, parla dei tre tamburi: il tambor piano, il tambor cico, il tambor repiche, borocotò, borocotò, borocotò, cascà, e poi il candombè fa la sua strada, diventa la milonga, diventa il linguaggio del lunfardo e diventa infine quel grande contenitore che si chiama il tango. Abbiamo ascoltato Juan Carlos Caceres nel suo Tango Negro Trio, che tra l'altro ha pubblicato un nuovo album di cui però ci dispiace non siamo ancora venuti in possesso. Molto molto bello comunque dalle recensioni che si trovano sul web, che si chiama No me rompas la bolas, dove c'è un'altra versione, anzi una versione rifatta della canzone Tango Negro, che dice anche questa: Tango Negro, los tambores non suenas más, ossia i tamburi non suonano più, los gringos fueron cambiando tu manera de bailar, i gringos, che sono i bianchi, hanno cambiato o stanno cambiando, non so bene la traduzione, la tua maniera di ballare. E questo proprio perché, come dire, come vi ho anticipato, è scomparso, almeno era scomparsa, la radice nera del tango, insieme ad altri elementi, con insomma, con un po' l'estinzione della popolazione nera afro-argentina, è stato sostituito nella milonga, nel tango, da sonorità, da tonalità timbriche occidentali, appunto dei gringos, degli europei. Meno male che ci sono questi nuovi progetti, questi nuovi artisti. Andiamo allora ancora ad ascoltare con il suo album, questa volta solista, del 2005, Juan Carlos Caceres, in murga argentina, con la canzone che si chiama Il Barrio. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas cosas se han borrado? Esos años que he tirado y yo he empecinado buscando el otro lado. Vuelvo a aquello que he dejado, vuelvo al barrio que ha quedado, solo y triste en un costado del tiempo que ha pasado y que nunca volverá. La murga va a cantar en este carnaval, en una esquina humilde con vestido de percal. La gente ya cambió, tu casa ya no está, y el adoquín quemado de las fogatas de San Juan. La murga se cayó, la murga ya se va, y en esa cuadra queda un recuerdo en el zaguán. Mañana yo me voy y tal vez no vuelva más, y hacia mi destino que jamás se va a cambiar. La murga va a cantar en este carnaval, en una esquina humilde con vestido de percal. La gente ya cambió, tu casa ya no está, y al adoquín quemado de la fogata de San Juan. La murga se cayó, la murga ya se va, y en esa cuadra queda un recuerdo en el zaguán. Mañana yo me voy, tal vez no vuelva más, y hacia mi destino que jamás se va a cambiar. Mañana yo me voy, tal vez no vuelva más, y hacia mi destino que jamás se va a cambiar. Mañana yo me voy, tal vez no vuelva más, y hacia mi destino que jamás se va a cambiar. Il barrio della Murga argentina, naturalmente non solo milonga e tango, nel Sud America spagnolo, in questo ultimo in questa ultima parte e luoghi del Sud America, ma anche altri generi, altre forme di musica, ma anche di teatro, di danza, come lo zamba, come la murga, una forma di teatro che coniuga la musica, la danza, la recitazione, che è molto vicina alla giocoleria da strada. In effetti ha una forte connotazione satirica, parodistica. Avete anche sentito dei fischietti, ricorda un po', no, il carnevale brasileiro. E questa arte si sviluppa soprattutto in Uruguay agli inizi del XX secolo, naturalmente, come vi ho già detto, collegata soprattutto con la festività del carnevale. Nell'ultimo album, Non mi rompas la bolas, che questa sera purtroppo non vi riusciamo a trasmettere, c'è un grande artista, sempre che vive in Francia, dovrebbe essere anche Juan Carlos Caceres, vive a Parigi, se non sbaglio, dal 1968 giù di lì. Anche lui dovrebbe vivere a Parigi, non so perché c'è questa un po' diaspora argentina verso Parigi. Comunque c'è, se Caceres è un po' colui che ha riportato, che sta riportando le radici nere al tango, Melingo è l'artista che sentiamo dopo, è un po' come dire il moderno ambasciatore del tango canzone, ecco come lo possiamo definire, uno che ha una vocalità molto profonda, molto virile, uno che ci ricorda spesso per come canta magari Tom Waits, altre volte Nick Cave. Era un ex rocker, adesso è un po' l'istrumentista, ha fatto due album veramente molto molto belli, uno si chiama Santa Milonga, l'altro è Maldito Tango del 2008, da cui andiamo ad ascoltarci una canzone tra le più dolci, si chiama Montmartre de Hoy. Cruzando voy por una calle del Vieux Paris, porteño errante, tanguero soy, y ancle muy lejos de mi país. Cruzo soñando Plaza Pigalle, siento de pronto la sensación de estar oyendo sentimental la voz gangosa de un bandoneón. Ecos de tango por Rufonten, duendes de Arola junto a un bistró. En el Florida canta Gardel, Pizarro talla desde el garrón. Aquel Montmartre no existe más, barrio de tango y rendezvous. La bruma avanza del bulevar sobre mi sueño de juventud. Soñando Plaza Pigalle, siento de pronto la sensación de estar oyendo sentimental la voz gangosa de un bandoneón. De estar oyendo sentimental la voz gangosa de un bandoneón. Uno dei più bei brani che abbia mai scritto Medingo. Sicuramente possiamo dirla come una sintesi tra la chanson francese e appunto il tango argentino. Davvero davvero molto bella, ricordiamo questa Montmartre de Hoy, contenuta in Maldito Tango, che può essere visto come un po' una perfetta ricerca tra la sonorità urbana di questo contenitore, tra il suo ritmo africano e soprattutto l'uso del lunfardo, il dialetto tipico, il dialetto che si usava alla fine dell'Ottocento in questi quartieri, il dialetto che ha dato vita alle espressività malinconiche piene di saudaggi del tango e che spesso Melingo riutilizza oggi nei suoi brani. Allora, andiamo avanti. Canta Gardel, dice Melingo in questa Montmartre de Hoy. Gardel, che è uno dei più grandi, una è stata una delle più grandi voci del tango, soprattutto legate agli anni 20-30 del secolo scorso. La voce dell'usignolo era così soprannominato questo personaggio artistico, che ha inciso alcuni tra i più grandi brani e composizioni tanghere, come Volver, come Mi Buenos Aires Querido. Dava un po' alla sua voce qualcosa che Horacio Ferrer paragonava al chamuyo, si dovrebbe pronunciare, sempre un termine lunfardo che indica il corteggiamento, il modo di corteggiare con la parola. Prossimo brano, andiamo al tango elettronico. Coloro che hanno fatto nascere questo nuovo genere sono sicuramente Gotham Project, allo scadere dello scorso anno. Gotham, che naturalmente è un anagramma dalla parola tango in lunfardo, e che loro, come Melingo, come Juan Carlos Caceres, sono partiti o tuttora dovrebbero abitare in Francia. Hanno anche pubblicato da poco, forse lo scorso anno per l'esattezza, Tango 3.0, il loro ultimo album, che noi non passeremo per... che sembra che ormai i Gotham Project non riescano ad aggiungere nulla di nuovo, nessun elemento nuovo alle loro sonorità. Al pari di loro, nel 2000 circa sono nati Bajo Fondo Tango Club o Tango Club, un'altra formazione di tango elettronico molto in voga, che suona, che mescola appunto le sonorità del paese sudamericano con l'hip hop, con l'elettronica, con il drum and bass, con la chill out spesso, e che è guidato da un nome molto in voga nell'ambito cinematografico, ossia Gustavo Alfredo Santaolalla, musicista argentino naturalmente. L'andiamo ad ascoltare con una canzone che si chiama Iano Duele, con cui alla voce c'è Tal Santurlo. L'album è Mardulce. Bajo a tomar un café, tropiezo, casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe. Me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo. Levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho. Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro. Mejor jugar de callado y nunca treparse al carro. Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido, en lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados. Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola. Y aunque el lomo no puede, y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía llueve. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira y la rambla que sigue vacía. Suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida. La lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaba en mi canción. Ya no duele el corazón, y esta noche el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Bronco tosarrón de tanto fumar, ganas de empezar a caminar y dejar de pensar en flores que se queman de frío, en un sucio jarrón vacío, en un río de plata marrón que ahora miro sin apuro. Chiflo bajo, me pateo el hormigón mientras pienso, calentón, que me rajo del laburo y que me rajo con razón. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón. Già no duele il corazon, il titolo di questo brano che ci accompagna quando sono le 10 meno un quarto qui sulle sonorità della Cicogna Nera, le sonorità popolari contemporanee, le musiche del mondo nel nuovo millennio, ma non solo. Oggi abbiamo aperto questa parte, stiamo ascoltando un po' di tango, l'abbiamo fatto con Juan Carlos Caceres, Melingo, siamo arrivati al tango elettronico, un sostituto molto molto valido, anzi probabilmente con fermenti un po' più creativi e migliori dei Gotham Project, sono questi Bajo Fondo Tango Club, abbiamo ascoltati in questo progetto del 2007 con Mar Dulce, di cui a capo c'è tal Gustavo Santaolalla, naturalmente musicista ma anche compositore e produttore di film, ha musicato molti film importanti, ricordiamone solo due, ad esempio Brokeback Mountain oppure Babel di Iñárritu o Iñárritu, non so quale sia l'esatta pronuncia. Ancora tango elettronico, un altro progetto nuovo, è uscito lo scorso anno del 2010, questa volta è dell'artista, del musicista argentino che ha una scuola di musica a Buenos Aires e che si chiama Carlos Libedinsky con i suoi Narco Tango, anche il loro progetto di debutto mi aveva colpito abbastanza, questa Lima Nueva invece, questo nuovo progetto del 2010 mi sembra un po' che abbia esaurito la parte così della novità, forse il tango elettronico è uno di quei linguaggi che si è esaurito con maggiore frequenza in questo nuovo millennio, forse c'è bisogno di trovare altre strade perché è sempre troppo simile a se stesso. Comunque, ultimo progetto dei Narco Tango con Supongamos. De mirar, me arrimo a la virtud de sus cimientos, serpenteando el hocico en su lunar, gambetea la sonrisa entre sus gestos. De pronto el sol pidiéndole perdón, volviendo atrás con la promesa de mimarla, cachetea el amanecer en su esplendor para salir una vez más por la persiana. Una vuelta y otra más sin mirar atrás. Con la inocencia de una copa en llamas. Y hasta la misma ruta supo andar sin importarle la cita de mañana. Volvió a salir frotándose la piel, abandonando la costumbre de la calma. Uno tras otro, los hilos de papel sentenciaron sin chistar la madrugada. Firme como un ancla, no hubo una mueca sola, hubieron dos. Quien la escuchó asegura que fue Franca. Una vuelta y otra más, sin mirar atrás. Una vuelta y otra más. Supongamos, questi sono i Lima Nueva qui alla Cicogna Nera. Continuiamo con, anzi forse la finiamo per questa puntata con l'ascolto del tango, il tango che naturalmente abbiamo citato i più grandi del passato che non riusciamo a mettervi in scaletta questa sera. Abbiamo parlato di Carlos Gardel, forse uno dei più grandi se parliamo di tango, sicuramente alle vostre orecchie, alle vostre menti, anzi mi viene subito in mente colui che è definito come il più grande, Astor Piazzolla, ma che invece c'è tutta una strada da percorrere prima di arrivare a lui. Ci sono le grandi orchestre, quelle che hanno elaborato il sestetto, anzi tipico delle bande di tango degli inizi del Novecento, ossia bandoneon, violini, pianoforte e contrabbasso. Una trent'anni, fino agli anni 30-40, l'epoca d'oro del tango. Questa era veramente un'epoca in cui questo genere andava forte e lo faceva con personaggi come Osvaldo Fresedo, come personaggi come Osvaldo Pugliese, di probabili ed evidenti origini italiane, che aveva una notevole espressività, un notevole tocco poliritmico con frequenti cambi di tempo, fino ad arrivare ad autentici giganti. Lo stesso, vabbè, Osvaldo Pugliese sicuramente è un gigante, l'altro è Annibal Troilo o Troilo, non so quale sia l'esatta pronuncia, forse il musicista che più di tutti ha saputo così far uscire dallo strumento del bandoneon quel tipico lamento, quello che viene recitato in uno dei suoi tanghi, in uno dei suoi tanghi più celebri, ossia Cuellas de Bandoneon. Bandoneon che probabilmente, anzi sicuramente, è stato creato in Germania verso il 1835 da Heinrich Behnd, e che poi arriva come sostituto dell'organo delle chiese di campagna qui nelle Pampa argentine, trasportate forse per la prima volta da un marinaio brasiliano di nome Bartolo. Forse invece altri dicono che sia stato un inglese di nome Moore, o altri ancora, la storia dice che si sia trattato semplicemente di una vendita di un immigrato tedesco in una balera. Comunque, storie su storie, miti sopra dei miti, quello che è sicuro è che il tango è un grande contenitore che racchiude all'interno di sé molti sentimenti diversi, non solo di tristezza, non è solo un pensiero triste che si balla, è anche una danza, una gioia, una sensualità, e anche la sfumatura che riesce a dare nei luoghi diversi del mondo dove tocca. In effetti questo genere ha veramente inciso fortemente alcune culture, alcune zone del mondo, l'Ungheria per dirne una, la Finlandia. In Finlandia è molto presente, molto sentito questo genere musicale che si balla nelle balere, che viene portato avanti da formazioni locali. In Francia, naturalmente, a Parigi, dove abbiamo visto che ci sono molti tra i più grandi compositori di tanghi contemporanei, lo stesso Melingo e Juan Carlos Caceres. E allora magari andiamoci e fermiamoci proprio in Francia, a Parigi, dove c'è il debutto discografico di una grande giovane marocchina che ha dedicato una canzone al tango. Semplicemente non ascoltiamo più del tango vero e proprio, anche se la sua lezione musicale è un po' un cavallo, è un po' un ponte tra il blues sahariano, tra la musica del mondo, tra il folk orientale. Si chiama Hindi Zara, è arrivata a 18 anni circa a Parigi e lavorava negli anni 90, così verso gli anni 90, al Museo del Louvre, fino a quando è arrivato nel 2007 al debutto con questa canzone, un debutto veramente, veramente notevole, Beautiful Tango. Tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time, yes, we've got time. False stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know. Beautiful Tango, il debutto di Hindi Zara, che poi lo ritroveremo nel suo disco dell'anno dopo, dell'anno dopo, qui ho scritto 2010, ma il debutto, questo qui è uscito circa nel 2007 o 2008, eccolo, anzi sì, mi sbagliavo io. Comunque, allora, questo EP è del 2009, l'anno scorso, esce per la prestigiosa Blue Note, nota degna di carico, insomma, questo album che si chiama Handmade e sul quale la giovane marocchina riesce un po' ad accorciare le distanze tra le tradizioni berbere e il blues sahariano, naturalmente con molti sapori che guardano musiche lontane, naturalmente il tango che abbiamo appena ascoltato. Prima di separarci da questo grande contenitore vorrei ricordare, anzi vorrei leggervi solamente due parole di Pina Bausch, un personaggio molto importante che se n'è andato nei primi giorni del 2009, perché le sue parole sono molto molto evocative, molto importanti, ci fanno capire molto dei nostri comportamenti e dei nostri gesti legati all'arte. Ci dice Pina Bausch che ha sviluppato dal 77 un metodo di danza e di teatro basato sull'improvvisazione che nasceva da domande. Lei faceva molte domande ai suoi ballerini, diceva che ne so, di che cosa hai paura, che cos'è la primavera, presentati, che cosa fai quando ti piace qualcuno, e ogni ballerino gli rispondeva con delle parole, dei gesti, gli consegnava insomma una parte del suo vissuto personale. E Pina ogni volta sapeva dove voleva arrivare, dice: le domande che poniamo ci conducono a esperienze che sono molto più antiche, che non appartengono soltanto alla nostra cultura e al qui e ora. È come se ritornasse a noi una conoscenza che da sempre ci appartiene, ma della quale non siamo più consapevoli e contemporanei. Ancora in occasione di un discorso della sua laurea ad honorem che le è stata assegnata all'Università di Bologna nel 1999, continua Bausch dicendoci: certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti, ma ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che fare. A questo punto comincia la danza, e per motivi tutti diversi dalla vanità. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. Says you worry much about things you don't understand, but don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be? Beautiful Imperfection, le bellissime imperfezioni di cui ne è pieno il mondo e che Asa, la cantante che abbiamo appena ascoltato, usa per dare il titolo al suo ultimo progetto uscito lo scorso anno 2010. Asa, sempre parigina, o meglio nigeriana, che vive a Parigi da un bel po' di anni e inizia la sua carriera all'incirca nel 2000, così conquistandosi abbastanza un successo all'interno della nostra Europa con il suo suono che avete un po' sentito, un miscuglio tra il funk, il soul, il pop. Lei è un po' cresciuta con questi suoni afroamericani dell'America del Nord e della sua Nigeria, cresciuta a Lagos nell'adolescenza, in questa capitale spesso in violento, spesso che ha delle componenti in violento conflitto tra di loro. Suoni naturalmente che nella sua mente ricordano alcuni riferimenti agli anni 70, Bob Marley, Marvin Gaye, Lauryn Hill, su tutti, e che Asa usa, secondo me, anche in quest'ultimo album in modo un po' troppo pop. Comunque, questo è il suo ultimo album, abbiamo ascoltato Why Can't We. Noi rimaniamo ancora in Francia per un altro progetto molto più brioso. Arrivano dalla parte del sud e si sente, da Marsiglia arriva Moussouti e Lei Jovens con l'ultimo album, anche questo datato dallo scorso anno, Putain de Canson o de Chanson. La canzone che andiamo ad ascoltarci qui alla Cicogna si chiama Come Too Much. Nage dans un mazagran rempli de sucre, de citron et de rhum blanc, et qui se disent que la cachasse c'est marrant, car ça te rend à la fois souple et boulégant. C'est bien connu, les mouches aiment bien la caipi, le punch coco, le tibonch et le daiquiri, un morito et un petit grain de folie, un gros câlin et on s'envole au paradis. Comme deux mouches qui nagent dans un verre blanc rempli de glace et d'un whisky vieux de 12 ans, et qui se disent que le bourbon c'est marrant, car ça te rend à la fois souple et boulégant. C'est bien connu, les mouches aiment bien le whisky, qu'il soit d'Écosse, d'Irlande ou du Tennessee. Un baby glacé, un petit grain de folie, un gros câlin et on s'envole au paradis. Comme deux mouches à la terrasse d'un café, sirotant dans le pastis de ma fiancée, et qui se disent que le pastaga c'est marrant, car ça te rend à la fois souple et boulégant. C'est bien connu, les mouches aiment bien le pastis, pour sa fraîcheur et pour son doux parfum d'anis. Une mauresque et un petit grain de folie, un gros câlin et c'est pas loin du paradis. Era il delirio etilico della zuccherina Come Too Much, scritto Moches, dei Moussouti e Lei Jovens, quarto album, quarto disco in studio in 6 anni di lavoro per questa formazione, che è nata da una costola dei Massilia Sound System. È molto prolifico il loro lavoro, se si pensa che comunque il loro leader contemporaneamente si dedica anche, che Moussouti contemporaneamente si sta dedicando anche alle idee, alle nuove creatività del system. Dunque una musica molto convincente, sempre come vi ho detto prima un po' briosa, in bilico tra i cantieri navali da Terza Internazionale di Marsiglia, tra la cultura occitana sempre molto evocata e molto presente, tra lo spirito freak, tra una seduzione tropicale che ritroviamo in alcune canzoni che guardano al Brasile, e alla malinconia del blues in alcuni passaggi. Comunque una straordinaria facilità compositiva per uno dei gruppi, secondo me, di mezcle sonore continentali tra i più bravi oggi in circolazione. Non così invece per il prossimo gruppo, un gruppo di Portland che sono partiti con un album stupendo, almeno fenomenale, un po' di anni fa. Non mi ricordo come si chiamava il loro album, solo che erano molto sentite le loro canzoni, quelle dei Pink Martini, un gruppo che arriva da Portland e di cui la cantante riesce a, così, a destreggiarsi indistintamente tra diverse lingue, comprese l'italiano, l'inglese, il francese, il giapponese e chi più ne ha più ne metta. Poi le pubblicazioni del loro album, man mano che passavano, si sono rivelate sempre più ridondanti, e così non fa eccezione questo loro ultimo progetto del 2010, dedicato un po' all'inverno, al Natale, uscito proprio in questa occasione, Joy to the World, con l'avvicinarsi del periodo natalizio, e non aggiunge purtroppo nulla di nuovo alle sonorità che hanno reso i famosi Pink Martini. L'ascoltiamolo con Shkedrik, se la pronuncia questo, sia Ukrainian Bell Carol. Molto più convincenti invece il gruppo che andiamo ad ascoltare ora. Rimaniamo in Europa, ci spostiamo sul versante lusitano, dove Marisa e Anna Moura hanno un po' rinnovato il volto nuovo del fado, ne hanno fatto un rinnovamento contemporaneo, ma loro, i De Olinda, sono riusciti in qualcosa di diverso. Hanno spostato un po' il tiro sul versante giocoso, sul versante brioso e un po' meno attaccato alla saudade del fado, e si sono conquistate un po' le giovanili, le giovani generazioni di ascoltatori musicali in giro per l'Europa, soprattutto nel loro paese, Lisbona, e questo è molto particolare visto che non è così facile far attaccare i giovani alle tradizioni popolari, in questo caso fadiste. De Olinda, che sono anche venute all'onor di cronaca per un fatto abbastanza recente, ossia quella di aver inciso una canzone che durante un concerto è diventata così in tempo reale la colonna sonora pacata, non violenta e risoluta degli indignados portoghesi, un po' una versante cosiddetto lusitano, una generazione che possiamo chiamare Gerassao Arasca, che possiamo liberamente tradurre come generazione spazzatura, ed è un po' appunto, come avevamo detto, la versione portoghese degli spagnoli, degli indignados spagnoli, anche se forse ha perfino anticipato questa corrente, una sollevazione d'animo di giovani con modi un po' meno teatrali di quella che è andata in scena a Madrid, a Barcellona, e che si rispecchia anche nella canzone dei De Olinda, che hanno pubblicato da poco il loro secondo album dopo un fantastico esordio con Cansao Aula Adua. Arrivano nello scorso anno a Dois Celos e Un Carimbo, ossia due francobolli e un timbro. Ve li abbiamo già passati, ce li riascoltiamo, insomma, molto molto volentieri, sono veramente freschi e così, senza problemi, verrebbe da dire. E allora, quella canzone che ci andiamo a sentire si chiama A Problematica, Colasau de Mastro. Colocação, escusate, de mastro. A problemática colocação de mastro para efeitos de enfeitar a avenida. Com balões de pendurados, papelinhos coloridos, trouxe um insólito sarilho à autarquia. É que esta idealidade agiu em conformidade com o gosto colossal de dois ou três. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio, nem o fim. Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim. O fascínio é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. São Pedro perdeu as chaves, Santo António o marino, São João perdeu os ares e preparou os seus azares, não encontrou cordeirinho. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu redondo e no céu é não tomo, outra pessoa não sabe em quê. Inquieta a multidão na avenida, assovia por tanto ter de esperar. Mas nem bairros, nem bairristas, nem as tais marchas previstas, o espetante espectador viu desfilar. Quem se entende com altares diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção, que o maior mastro do mundo é português. Recuperados os santos dos seus maus tratos, os responsáveis resolveram confrontar. Escorregando pelo mastro, perguntaram cá embaixo que o país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho, toda a gente varre o lixo, quando a culpa nos aponta e evolve. E quando toca ao país, patriota é o que diz, que o maior mastro do mundo é espanhol. Ela postitó português. Solo es grande tu en pequeñez. Pero el mayor más todo el mundo es español. San Pedro perdeu as chaves, Santo Antônio o marino, São João perdeu os ares e cravou os seus ares, não encontrou o cordeirinho. Santo Antônio anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu no 14 canzoni per questo nuovo progetto dei Deolinda, che come vi abbiamo detto prediligono le tinte pastello piuttosto che così al nero della malinconia della vecchia scuola fadista. Composizioni tutte di Pedro da Silva Martens, che è anche il fondatore del gruppo e che insieme al fratello ha scritto queste canzoni. C'è il contrabbasso di Zé Pedro Leitao, poi marito anche della frontwoman, che spesso, anzi troppi, quando ascoltano i Deolinda per la prima volta tendono insomma a identificare come colei la cantante del gruppo. Non è così. La frontwoman si chiama invece Anna Bacalao, al secolo Anna Bacalà, ed è anche una intrattenitrice molto spiritosa e acuta, che per confermare i suoi le sue tonalità pastello, così ha sempre addosso come vestiti dei colori sgargianti. Deolinda, il nome di Deolinda sta un po' a rappresentare l'io immaginario dei testi, della narratività delle loro canzoni, che spesso si sono accorti loro durante durante insomma l'elaborazione dei testi, erano calzati a pennello per la mente, per lo spirito di una giovane donna. E questi sono i Deolinda. Quando siamo arrivati alle 10:20 questa sera, anche come la scorsa settimana, non ci saranno le sonorità di Noctibus Panis. Noi ci ascoltiamo ancora un paio di canzoni invece e poi vi salutiamo. Verso le 11 dovrebbero arrivare, forse anche prima, i ragazzi dal rock, che questa sera non so cosa vi propongono. Comunque rimanete sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Noi andiamo avanti con una spagnola un po' particolare, perché è nata proprio nell'isola di Mallorca, ma arriva dalla Guinea Equatoriale. È un po' un vissuto culturale sonoro del tutto particolare, Concha Buica, che ha pubblicato El Último Trago. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. un colore della voce molto particolare, questa di Concha Buica, con alle spalle già 4 album molto acclamati dalla critica e dal pubblico, recentemente in tour negli Stati Uniti. Qui al piano l'accompagna l'immenso Jesus Ciucio Valdés, che ha aperto quella palestra degli Iracher nel 1973, di cui abbiamo accennato la settimana scorsa, o forse anche 2 settimane fa, quando abbiamo fatto un po' una passata in rassegna delle musiche cubane. Dunque, una guineana nata nell'isola di Maiorca, che è cresciuta in un barrio dove erano pieni di gitani, e dunque è cresciuta praticamente a suon di flamenco, di musica andalusa, e questo, tutto questo ha plasmato molto la sua sonorità musicale, che va in diverse direzioni. Nel caso di quest'ultimo album, El Ultimo Trago, pubblicato nel 2009 o 2010, dedicato alla immensa cantante regina della musica ranchera messicana, Chavela Vargas, ancora un mondo sonoro che entra nella mente e nel cuore di Concha. Questo perché ci dice che questa musica qui l'aveva ascoltata quando era bambina. Dice che il padre se n'era andato di casa e sua madre si nascondeva dietro le lacrime di questa musica, della musica ranchera, per non piangere di fronte a loro bambini che erano lì presenti in casa. Dunque ascoltava la musica di Chavela Vargas e diceva: oh, che bella canzone, ma Adesso che sono cresciuta, dice Concha Buica, ho capito che in realtà piangeva per mio padre che se n'era andato. E questa, dunque, è un altro bel progetto a metà tra jazz e musica popolare che abbiamo passato qui alla Cicogna Nera quando sono le 10:25. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone, si chiama Kasai All Star e Lonely Drifter Karen. I Kasai All Star e i Konono numero 1 sono un po' quel mondo che la Crammed ha fatto uscire negli ultimi anni, una sonorità che va avanti a suon di likembe elettrificati, il piano a pollice, l'ambira dovrebbe essere, ecco, una versione molto specifica dell'ambira che arriva dal Centrafrica, e che personaggi come appunto i Konono numero 1, i Kasai All Star, hanno così elettrificato, dandone vita ad un suono molto potente, un suono di trance, un suono veramente così particolare. La Crammed ha pensato bene di far sposare questo suono da club a diversi DJ, musicisti che calcano le scene, insomma, dei club di tutto il mondo, e ha pubblicato questa Tradi Mods VS Rockers. Ossia, Tradi Mods dovrebbe essere un po' quella corrente, quel genere che cerca di mescolare la musica appunto tradizionale popolare con le nuove giocolerie elettroniche, per così dire, con la nuova elettronica. VS Rockers sta a indicare proprio gli artisti che sono intervenuti in questa sorta di compilation, a cominciare dagli Skeletons, Animal Collective, Juana Molina, ancora perché sono quelli che vi passiamo in questo momento. Un gruppo che ha preso via al Barcellona all'incirca nel 2007, ossia i Lonely Drifter Karen, un progetto di pop folk stralunato molto molto bello, che è partito grazie alla sua cantante viennese Tania Printa, e che appunto cercano di remissare questa canzone dei Kasai All Star, ossia Hunting on the Moon. Swimming fish. Questo dunque l'interpretazione dei Lonely Drifter Karen, che tra l'altro sono usciti da poco con un loro nuovo album, di questo Likembe elettrificato che stavo leggendo ora, dovrebbe far parte di l'etnia degli Shona, una tribù degli Zimbabwe, da dove arriva questo piano a pollice costituito proprio da una serie di linguette di metallo a forma diversa e fissate da una parte su un pezzo di legno, saldamente così elettrificate lì. E poi arrivano dei gruppi come Konono tra l'inizio degli anni 70, anzi la fine degli anni 70 e l'inizio e 80, quando il leader Mijendi forma il primo, primo nucleo della band e iniziano a suonare a Kinshasa. Che dire, siamo arrivati alle 10.31, la cicogna nera deve finire perché non c'è più tempo, anzi tempo ce ne sarebbe, ma la playlist non è stata così fatta a dovere, dunque magari vi proponiamo giusto una novità musicale, non so forse quanto nuova, un progetto che parte forse un annetto fa o due anni fa, comunque a capo di questa bella formazione italiana, torniamo qui, anzi entriamo qui nella capitale dove purtroppo non siamo molto spesso nelle puntate della Cicogna. Due anni fa, comunque, ripeto, Andrea Piccioni degli Una Vantaluna, un musicista molto aperto verso la musica orientale, e il suo amico Peyman Tadoyan dei Navai Ensemble hanno l'idea di costituire questo ensemble, scusate la ripetizione, il gioco di parole. Prendono anche un tablista che era arrivato in Roma poco prima, che si chiama Sanjay Kansabanik, che era dell'orchestra di Piazza Vittorio, e danno così vita all'insieme di amici, ossia lo Yar Ensemble. Fanno il loro debutto all'Auditorium Parco della Musica, dopo che hanno fatto un po' di concerti di prova che si possono vedere su YouTube, e in cui c'erano due ospiti molto importanti che li abbiamo anche ritrovati, li ho ritrovati in un concerto che sono andato a vedere poco tempo fa al CIP, il centro di iniziativa popolare a Centocelle, un luogo molto molto bello che fa delle cose davvero interessanti. I due ospiti sono Luigi Polsini al contrabbasso in quel caso, ma lì al CIP aveva degli strumenti medievali, lui è molto appassionato insomma di questi cordofoni di retaggio medievale comunque europeo, e alla voce Martina Pelosi insieme a tre danzatrici, Maria Luisa Sales, Valentina Manducchi o Manducchi e Roberta Parravano. La Cicogna Nera finisce anche per questo giovedì, vi ripeto, rimanete qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, alle 23 o poco prima dovrebbero arrivare i ragazzi di Apostasia, e io vi do appuntamento alle 21 e un quarto circa per giovedì prossimo, e un buon ascolto sulle frequenze di Onda Rossa. Adesso farò partire la IR Ensemble, poi un po' di automatico della nostra radio. Ciao agli uomini.